Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Popolo dei già svegli, buongiorno. 24 mattino, una giornata piena di cose, di polemiche, di notizie, con pochi giornali ma con tante cose interessanti. Ovviamente una giornata di dibattito, ma come sempre, prima di parlare con il nostro ospite di eccezione, un uomo simbolo, una voce che la radio ha, come dire, trasformato in un monumento, prima di parlare con il mitico Gio Violanti, parliamo dal blob della giornata. Ci stanno certi dei piatti di pasta che io, con tutto rispetto, me li farei. Alle 4 del mattino mi ha svegliato mio figlio, che è preoccupato per me. Ha fatto: papà, devi andare in radio. In questo momento mi trovate a Villa Borghese, che stavo correndo, ho fatto già la mia corsetta mattutina. Salutista. Però Oscar oggi non ci cola più la sedia. Ma oggi non ci cola più semplicemente perché sono sei in piedi. Numero uno! Vabbè, la tubercolosi contratta a Camogli. Sì, spero gli intellettuali trasmettono la tubercolosi. Non i migranti, ma gli intellettuali. Geniale! Chiudiamo qua! No, non diciamo sciocchezze. La domanda è: ma chi ha pagato l'avvocato della figlia? Patrocinio gratuito, se l'ha pagato lei, è l'ascoltatore. No, rassegnati, no, no. Invece le tasse le paghi anche tu. È bello cominciare ogni mattina con questo sunto, questa quintessenza di quello che abbiamo fatto in questi giorni, Depeche Mode. Bella questa canzone, Gio, non so bella, se ti piace. Piena di ritmo. Buongiorno, Ma è una canzone molto attuale perché ci racconta il tempo, il bisogno dei santoni, delle divinità. Beh, certo, no? Ti stavo dicendo buongiorno anche ai tuoi ascoltatori, Luca. Che onore essere qui a Radio 24. L'onore è nostro perché tu sei una specie di monumento. Mi pare che hai iniziato con la radio prima di Guglielmo Marconi, no? E quindi eravamo lì, lui faceva le sperimentazioni, poi mi chiamava e provavamo il microfono. No, è una vita che sono in radio. Il mio luogo preferito. Già è difficile definirti, perché tu sei un conduttore, sei un satirico, sei un imitatore. Viene in mente quella famosa battuta di Ron Kay: lei è un tuttologo anche. Anche. E quando sei tuttologo, sai, Luca, la gente ti può guardare anche con un certo sospetto. Dice: sai, oggi vanno gli specialisti. Cioè, tu sei un conduttore, uno specialista nella conduzione. Intanto complimenti, perché devo dire che tieni bene la mattina. Ecco, ma tu come facevi a svegliarti? Adesso ti do qualche indicazione per vivere una vita normale, pur avendo un orario che è molto difficile. Ma essendoti svegliato anni e anni per fare radio presto, poi hai continuato, cioè ti resta l'orologio biologico? No, poi ti abitui facilmente ad alzarti un po' più tardi, ti assicuro. No, però devi intanto fare, te l'avevo già detto al telefono, devi fare il sonnellino pomeridiano. Quello è fondamentale. Allora, voglio iniziare a raccontare questa cosa. E tu, un po' per gioco, un po' per, come dire, non da professionista, partendo dall'entertainment, sei diventato imitatore radiofonico, no? Alla fine sì. E tu dici che la radio ha già una vocazione per questo. La radio, che è fatta di suono e di fantasia, ti permette di anche improvvisare, magari fare... Cioè, e poi, basta poi siccome variazione... non ti vedono, cioè te puoi anche, certo, come dire, prendere i panni di qualcun altro velocemente, senza il problema del trucco televisivo, sai, queste ore e ore di protesi di silicone, cioè ti passa la voglia di farlo. Invece in radio, cioè, è molto per più esempio semplice. Per entrare nei panni di Tremonti, che cosa bisogna fare? Allora, scusa, intanto è un discorso psicologico, perché tu intanto devi un po' amare, apprezzare, stimare il personaggio che imiti, no? È difficile imitare una persona, e poi un po' capirne i tratti psicologici. E allora Tremonti, che è un po', insomma, si sapeva un po' spocchioso. Insomma, Telese, sappiamo da che parte sta, dai. No, cerchiamo di essere seri. E lui c'è sempre questo sussiego. Sì, e puntualizza, e poi si infastidisce. Dai, andiamo avanti. Ci sono imitazioni che poi diventano anche degli omaggi postumi quando il tuo emulato scompare. E io so che tu hai creato un monumento praticamente Vabbè, Funari. Lui ha imitato anche da altri, ovviamente. Beh, lui è un grande personaggio di comunicazione, quindi molto simpatico, molto, molto piacevole. Ho anche avuto modo di incontrarlo quando lui ha saputo che... Ho saputo che mi fai l'imitazione, ma non ti posso ascoltare perché mi alzo alle 2 di pomeriggio. Grandissima testa. Come questo grandissimo stronzo. Come questa cosa pomeriggio. Ma devi nei panni dell'uomo. Adesso non lo vedete, ma bisogna mettersi un dito sul naso, sì, e dentro. Diventa lui. No, sul. Ma perché lui c'aveva un dito sempre puntato contro alla telecamera e faceva un po' come se fosse stato a casa sua. Con questa voce un po' sofferta, no? Molto, sempre sofferente, grande fumatore, grande uomo di comunicazione. Ho avuto il piacere di incontrarlo. Abbiamo, a un certo punto, alla fine lui parlava e io lo imitavo, ripetevo le sue frasi. Poi l'imitazione, Luca, permetti di dire, non è sempre perfetta, a volte sono un po'... No, questi sono perfetti, no? Sì, figurati. Però raccontavi di Funari, che era anche un genio, no? Aveva una memoria pazzesca, e quando vi incontraste, e tu che pensavi che fosse lì un po' ebbero di notorietà, invece dice: io ti ho incontrato. No, noi ci siamo incontrati 10 anni fa all'ingresso da Rai a Viale Mazzini. Tu stavi col fratello del Genegno. Ed era vero. Era vero. Charlie, salutiamo. Anche lui sarà dormendo, però. No, forse si è svegliato. No, si sveglia presto, Charlie. Anche un altro lui, monumento, che della, un monumento della radio satirica. Della musica, soprattutto. Se ci sente, gli fa piacere. C'è stata una grande età dell'oro della radio, cioè proprio in cui i conduttori divennero improvvisamente star, ricchi, celebrati. Ha già firmato il contratto, Luca? Tu. No, perché sì. A volte sei in trattativa, hai già iniziato. No, non lo sto facendo per sei peso. Tu hai vissuto quella stagione, del mattino all'oro in bocca, no? Quella stagione. No, la stagione del post-oro, diciamo. No, c'è stato un periodo in cui effettivamente le radio. Beh, Radio 24 è ancora una radio che. Radio 24 è il top, però. È il top, e anche questa necessità. Si ancora di avere delle personalità, no? Però c'è stata un'epoca in cui effettivamente le radio volevano il conduttore che fosse un personaggio, e quindi andava a cercare personalità. Poi dopo il mercato è un po' cambiato, adesso ci sono le radio di flusso, dove meno male, insomma, è più semplice. C'è meno allora voglia. 349-238-6666, che cosa è stato Fiorello per la radio secondo te? Beh, Fiorello è stato sicuramente un punto di riferimento di un periodo, gli anni 90, in cui lui ha incontrato, insomma, la necessità degli editori di fare spettacolo radiofonico, cioè il vero show radiofonico, che dopo la conduzione dei disc jockey tradizionali lui si è inventato appunto le voci, i personaggi, che poi il maestro di tutti noi, insomma, è Arbor, anche Buoncompagno erano loro, è vero, che hanno inventato proprio il vero show radiofonico. E la cosa che mi diverte di questa tua capacità di improvvisare, che magari dice è vero, non sono un perfezionista, non sono uno di quelli scientifici, però ti basta uno spunto, cioè per esempio uno dice no, prova a lavorare ora subito a Cacciari, come c'entri dentro? Allora Cacciari intanto tu sai che ha un'ossessione, quella del Partito Democratico. Partito Democratico, capiscono niente. E poi è Veneto. Allora provaci tu, perché il Partito Democratico, cioè lui ha una R arrotolata e poi c'è questa ossessione, allora può uno da lì parte e comincia a costruire il personaggio, però non è semplice, che devi trovare anche la tonalità di lui. E provaci, dai, allora. Così è proprio improvvisazione pura. Allora fatelo, altrimenti siete dei dementi. Io l'ho detto, fatelo, perché il Partito Democratico, la frammentazione del Partito Democratico, la polverizzazione, cioè lui bello, c'ha tutto addizionale, no? E ogni cosa che dice però, è più. E più poi c'è questo modo di anche di incazzarsi un po', incazzare a volte. È giunto il momento del fritto misto. È già molto grave in sé che in servizio, utilizzando in qualche modo anche la divisa che portava, si sia approfittato di una situazione con delle ragazze. Io credo che ognuno deve fare il suo lavoro, perché è giusto che la donna lavori, perché è fondamentale, anche perché una donna che non lavora ha solo un motivo per dirlo a partì marroni dal mattino alla sera di base. Se ci sono dei bambini, io vado sempre stata, sentivo delle voci di bambini, vorrei dire alla bambina, al bambino che c'è qua, mi raccomando, so che adesso ti darò un dolore, ma la sirenetta è una favola, non è vera. Non ti capisci, dice la sirenetta. E la vincitrice di Miss Italia 2017 è la numero 07, Alice Rachele Arlanc. Pensate, da un paesino di 14 abitanti. E questa è la notizia, ha vinto Rachele. Qualcuno io l'avevo detto, Rachele. L'avevo detto al PD. Rachele potrebbe essere la rappresentante del nuovo Partito Democratico, l'avevo detto. E invece la perla, proprio la perla del weekend, che non è questo dialogo. Che non è Cacciari, si è capito? No, la perla è questo dialogo fra Renzi e la bambina, e Renzi gli dice che la sirenetta non esiste e si sente la vocina al comizio. No! No! Questo è un grande errore per un comunicatore come... Ma perché? Non è vero, il cattivismo stupisce, no? Non saremmo qui a parlare se gli avessi detto la sirenetta. Ah, dici che l'ha fatta un po'. Lui è vero, ha un istinto cattivissimo, ma in questo caso è... E lo sanno in tanti. È spiazzante, no? Certo, assolutamente. Invece, secondo te, Briatore, che ha detto questa cosa bene, che le donne iniziano a lavorare, un diciamo, Briatore femminista... Così non stanno a casa a rompere i maroni. Ecco, quando torna la Gregoraci gli dà una padellata in testa o è d'accordo? Ecco, bisogna capire il rapporto fra lui e la Gregoraci. Non si è mai capito. Chi comanda a casa Briatore? Elisabetta! Fammi gli spaghetti. Cioè dipende da che... Cioè dipende se... Non ha un ma rapporto... quello è calabrese, ma ti pare che... No, eh? Beh, e lui, sai, lui è piemontese, cioè quindi... Che gli dice? Sei fuori, no? Comunque... Elisabetta, per me, te sei fuori. E io torno alla Renault. No, non lo so, è difficile. Anche Briatore è stato uno dei tuoi cavalli sì, di battaglia. Che cosa? Perché in qualche modo tu hai contribuito al suo successo con questa imitazione, poi facevi gli scherzi e le parodie. Che cosa fu il briatorismo? Il briatorismo, guarda, è una cosa divertente, perché nell'epoca in cui Briatore, cioè si sentiva parlare di Briatore, ma nessuno conosceva la voce effettivamente. Quindi si poteva anche fare una voce un po' così, dai, chiamavi uno un po', E lui è piemontese, ma avendo un po' girato, insomma, non ha una cadenza definita. E quindi chiamavo i personaggi famosi e poi li invitavo nella mia... In modo un po' brusco. Sì, un po' Twig, dai, ti aspetto al Twig, ti passo a prendere con l'elicottero. E tutti, cioè, era talmente assurdo, ma erano talmente anche contenti di essere invitati a una serata di Briatore che molti ci sono cascati, anzi quasi tutti. E non avevo il turno, ti avrei chiamato. Non ti ha mai chiamato? No. Però cioè, l'ho chiamato facendogli uno scherzo. Chi è quello che si è arrabbiato di più per l'imitazione, la parodia? Eh beh, insomma, è Santoro quello che... È questo. Entriamo nella leggenda. Sì, perché all'inizio un po' si divertiva, poi tu iniziassi a chiamare tutto il mondo proponendo... E proponendo... Proponendo... L'invito. No, Michele, dico... Ah, Michele. No, tu Michele proponevi. Ah, vuoi che faccia via? Fammelo pescare nella memoria. Che ci vuole, eh? Allora, io volevo... Allora, insomma, noi cerchiamo di essere anti-berlusconiani, no? Perché altrimenti rischiamo di confonderci in queste cose. Allora, poi lui diventa serio, però ogni tanto ha questi momenti in cui privatamente... È bellissimo, come la risata gli si arrotola... Gli si arrotola, poi deglutisce molto, no? Perché dobbiamo anche fare... Dai. E allora, insomma, questo simpatico Michele chiama Luca Telese e lo invita, insomma, in trasmissione, no? Perché abbiamo bisogno di parlare di informazione. Tu, Luca, sei un uomo di grande sensibilità, no? Allora ti volevo, insomma, in trasmissione qui a meraviglioso. 24 poi ti arriva una lettera di un avvocato e tu poi, ci insomma, scherzi. Lui si un po' stranì un po' di questa cosa, perché diceva che aveva, no, diceva che questi scherzi si incrociavano con effettivamente i suoi, la sua necessità di evitare, e distruggevano la sua immagine, no, lo ostacolavano sul lavoro, no, in realtà lui non era, non, ci sono persone che amano essere imitate. Mistero dei misteri, perché quando fai l'imitazione ti scompare l'R rotata parmigiana? Perché altrimenti non puoi fare, insomma, quelli che non hanno la R, no? Devi fare solo, sono alcuni, e quindi devi per forza inventarti. Strada in diretta e poi torniamo qui, restate collegati. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta "24 mattino". I già svegli. Sono Alberto Castelvecchi, io mi sveglio sempre presto la mattina, ma per Luca Telese mi sveglio più volentieri, anche perché vi giuro che se Luca Telese riuscite voi a farlo svegliare presto, è evidente che Radio 24 fa miracoli. Buongiorno Telese, io non riesco a dormire, quindi insonnia, però mi piacerebbe che lei entrasse da noi un po' più morbido. Non ci butti giù dal letto con la notiziaccia, col tono... Sia dolce. Pronto, sono sveglio perché non essendo un politico devo lavorare. E questo era solo l'ultimo dei nostri ascoltatori, l'ultima voce che abbiamo captato sulla segreteria 0246524492. Scriveteci cosa pensate di questo programma, raccontateci con le vostre parole che cosa pensate di questa rubrica, già svegli, raccontateci perché siete svegli. E, ti volevo chiedere subito, ancora qui con me Gio Violante, come si fa, come stiamo per fare adesso, a passare dal sorriso al dramma in un secondo, in una battuta? Beh, si fa in modo naturale, Luca, perché la radio è un mezzo di comunicazione che sa contenere tutto e sa passare dalla battuta anche e quotidianamente ti accadrà, vedrai, nei mesi andando avanti, molto spesso purtroppo, quindi passando dalla leggerezza, anche affrontando i temi d'attualità che purtroppo comportano sempre notizie gravi, e in questa giornata tra l'altro maggiormente, perché ci sono, insomma, molte notizie spiacevoli. Però... ci sono i morti a Livorno, ci sono bilanci che stanno crescendo di vittime, di disagi, e quindi è importantissimo che Radio 24 entri nel clima di questa storia con una testimonianza, e poi andiamo a sentire gli aggiornamenti da Andrea Ferro, corrispondente della radio, che è lì sul campo. Per fortuna siamo vivi, per miracolo, perché verso le 5:10, quando praticamente aveva smesso di piovere, ho sentito un rumore come se fosse un fiume che straripava. Ho perso tutto, praticamente. Non lo so cosa ci sia fra il fango, niente. When I was young, I told my... Allora, buongiorno Andrea Ferro, ti sei svegliato ovviamente per una tragedia, per lavorare, ma anche per raccontarci qual è lo stato dell'arte dopo una notte tremenda. Sì, buongiorno da Livorno. Innanzitutto ti dico che dalle 5 sulla città ha ripreso a piovere, pioggia non intensa, ora è intermittente, dovrebbe smettere in mattinata, dicono le previsioni. E stanno per riprendere le ricerche dei due dispersi, sono una donna e un uomo, chiaramente le ricerche riprendono alle prime luci del giorno. Il giorno sta svelando sotto i nostri occhi le scene di devastazione che avevamo visto all'arrivo a Livorno ieri mattina, in particolare nella zona dell'Ardenza, nella zona di Montenero, nella zona di Monte Rotondo, che sono le parti della città più colpite dalla bomba d'acqua, perché ormai si chiamano così, bombe d'acqua, che intorno alle 2 e fino alle 4 e mezza, 5 ha imperversato sulla città. Una nota di servizio, 2000 famiglie sono ancora senza luce e dal comune fanno sapere che le segnalazioni di odore di gas, mi è stato chiesto di dire questo, non sono da riferire a fughe di gas, quindi non ci sono pericoli, ma si tratta di idrocarburi che evidentemente sono stati trascinati dalle piene dei torrenti. La città si sta svegliando provando ad inseguire una normalità che è impossibile nel giorno dopo, oggi potremmo dire il day after della bomba d'acqua su Livorno, un'atmosfera chiaramente difficile, nel corso della giornata proseguiranno i sopralluoghi anche da parte della Procura. Come ben sai, come riportano ampiamente i giornali, è in atto subito una polemica piuttosto feroce tra il sindaco di Livorno, Nogarin, e il presidente della regione toscana, Rossi, a proposito dell'allerta. Era arancione sabato sera, quando forse avrebbe dovuto essere rossa. Chi ha sbagliato? Chiaramente il sindaco dice che è la regione ad emettere questi bollettini meteo. La regione dice che c'è poca differenza, segnatamente il presidente Rossi dice che c'è poca differenza tra l'allerta rossa e l'allerta arancione, dice gli altri comuni si sono subito adeguati, mentre invece il comune di Livorno non ha avvertito evidentemente la situazione di pericolo. Da segnalare che l'allerta rossa sabato sera e nella giornata di domenica, la prima parte della giornata di domenica, era in vigore in Liguria, dove avrebbe dovuto scatenarsi questo fronte perturbato, quantomeno la parte più violenta di questo fronte perturbato. E infatti hai ragione Andrea, in Liguria lì hanno fatto, come hanno raccontato tutti, hanno fatto tesoro della lezione dell'alluvione precedente. E ti ringraziamo, sappiamo che ti collegherai continuamente con la radio con i tuoi aggiornamenti. Grazie per questo racconto della mattina, il tuo primo, grazie. Allora abbiamo in collegamento Alberico Lemme, il terrore di noi. Tu sei ciccione, Gio, no, sovrappeso. Come ti definisci? No, io sono... Perfetto. Ma sto meglio, aspetta, basso un attimo le cuffie. No, sto meglio, però ho perso qualche chiletto, anch'io. Bene, Alberico Lemme è, come dire, l'uomo che ha trasformato le diete in uno spettacolo, in uno show, e oggi è qui perché è circolata voce di un patto segreto, sarebbe lui, non Scenò, il dietologo che ha fatto dimagrire Berlusconi, ma ci sarebbe un patto segreto fra lui e il Cavaliere, lo abbiamo letto nei retroscena dei giornali, perché non riveli nulla. Buongiorno Alberico Lemme. Buongiorno a voi ciccioni. Io come... non sono il terrore, sono la vostra salvezza. Cioè, ci mancherebbe. Ma come facciamo a rivelare questo patto segreto, se è segreto, senza rivelarlo però dicendolo? Appunto, essendo segreto non si può Vabbè, allora, facciamo un po' di cose. Ma quanto ha perso Berlusconi secondo lei? No, scusa, prima domanda, Lemme, scusa, quanto ha pagato Berlusconi? No, ma Lemme ha delle tariffe molto popular, sì? Tutti possono, è un'aristocrazia, un'accademia, ma tutti possono accedere. Vabbè, non è il prezzo il problema, è che è una terapia shock e poi lui chiama e insulta, capito? Cioè ti si stringe lo stomaco con gli insulti, è una terapia castigatoria. Faccia l'esempio, Lemme, quando chiama, che ne so, quelle belle signore di Milano ingioiellate, e lei le chiama, gli dice dico buongiorno ciccione, quando ha perso? E loro dicono quando hanno perso, poi se sgarrano gli dico lei è una gran testa di donna. Allora, quanto ha perso Berlusconi a 80 anni in 2 settimane poi? E questa è la cosa che stupisce. Non si può. Non è che ci deve rivelare dei segreti, quello che lei immagina vedendo le foto che vedono tutti. Ha perso sicuramente 6-7 kg. In 2 settimane 7 kg, Ed è possibile? Tutto è possibile con Lemme, tutto è possibile. Allora è lui. Ma sta in viva voce, professore, dottore? Sì, lo devo togliere? Sì, quello è fondamentale in radio. Allora, dicevamo, tutto è possibile e quanta fatica gli sarà costato, perché devi sapere, caro Joe, sì, che Lemme ha un precetto, che lui fa la dieta con i bomboloni alla crema la mattina. E funziona, vedi che subito ho visto un sorriso. È un genio. No, su Berlusconi però vorrei dirti una cosa, quanto pesa, perché non si sa, quanto pesa 1,5 milioni di euro? Su cosa peserà? 700-800 grammi? Beh, lui tutti i mesi diciamo che li perde pagandoli all'ex moglie, quindi già quello insomma lo fa dimagrire abbastanza da un certo punto di vista. Poi dopo, Lemme, ma il bombolone di Berlusconi com'era? Bombolone li faccio io, sono i bombolemme con crema, sono fritti e fanno dimagrire, sono favolosi. E perché accelerano il metabolismo? Anche gli spaghetti a colazione, quelli che voi comprate in giro, fanno dimagrire, non solo i miei spaghetti. Aglio e olio? Col peperoncino, sì. Vedi. È stata un po' fatta anche una canzone. Spaghetti a colazione, questo è il nuovo tormentone per te che sei ciccione, è una gran rivoluzione. Io ciccio. Quindi, per dimagrire bisogna svegliarsi presto? Prego? Bisogna svegliarsi presto per dimagrire? No, bisogna mangiare entro le 9. Dopo le 9 si ingrassa. Perfetto, grazie. In questo precetto lampo e in questa sintesi c'è l'uomo che si sussurra, si dice, è il responsabile del dimagrimento lampo di Berlusconi. Ci fermiamo ancora una volta.